Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, continuiamo il nostro viaggio fra le strenne, alcuni titoli che possono essere utili per regali, anche per regali a se stessi, nelle prossime festività di Natale. Comincio con uno strumento molto particolare per accostarsi alla storia dell'arte e cogliere l'evoluzione dell'arte fino ai giorni nostri. Il libro Lo specchio del mondo, una nuova storia dell'arte di Julian Bell, autore di molti libri sulla storia dell'arte, un inglese, artista e critico d'arte, fra l'altro proviene da una famiglia di artisti, è cresciuto proprio in mezzo alla poesia, alla pittura, ed è lui stesso diventato un importante critico d'arte. Questo libro è pubblicato da Elekta, 496 pagine, 39 euro. È un libro, ritengo, coraggioso, ma riuscito, perché Bell vuole raccontare la storia dell'arte collegando le grandi civiltà del passato, anche quelle a noi lontane, per coglierne le influenze che si riverberano poi sulla civiltà contemporanea. E perché usa questo titolo? Sentiamo la spiegazione dello stesso autore. Ai miei occhi, più che una finestra aperta su una sfera estetica a sé stante, la storia dell'arte è come una cornice all'interno della quale la storia del mondo si riflette continuamente in tutta la sua ampiezza. Parto quindi dal presupposto che gli sviluppi dell'arte siano in qualche modo collegati ai cambiamenti sociali, tecnologici, politici e religiosi, per quanto questo gioco di specchi rimandi immagini rovesciate o rielaborate dalla realtà. Interessante per esempio lo sforzo che fa Bell di cogliere i risultati dell'incontro che avvenne tra la civiltà greca e la spiritualità buddista, che fu resa possibile dalle spedizioni di Alessandro Magno. Un programma questo di Bell ardito, come avete sentito, ma condotto con uno stile chiaro, divulgativo, per nulla erudito, specialistico, e quindi con un risultato adatto a chi veramente è interessato allo sviluppo dell'arte, che potrà qui seguire con non più di 350 opere scelte personalmente dall'autore, che vanno dalle pitture rupestri del 5000 a.C. fino all'ultima, il quadro di un artista coreano, Lee un fan del 1990. Julian Bell definisce il padre fondatore dell'arte occidentale Giotto, al quale è dedicato l'affare migliore di Enrico, Giotto e la Cappella Scrovegni, di Chiara Frugone, pubblicato da Einaudi, 602 pagine, 65 euro. Perché Enrico Scrovegni costruì la cappella alla quale è per sempre legato il nome della propria famiglia? L'interpretazione corrente è che volesse far dimenticare le colpe del padre, che era un usuraio. Dante lo aveva collocato, gravato da questa colpa, all'inferno. In realtà, dice Chiara Frugoni, i tempi non corrispondono, perché la Divina Commedia cominciò a essere nota tra il 1314 e il 1315, mentre la cappella era stata affrescata da Giotto circa 10 anni prima. Furono altre le motivazioni di Enrico per costruire la cappella che poi affrescò Giotto, motivazioni che consentono alla Frugoni di condurci a una lettura assai minuziosa del ciclo degli affreschi, tanto da darci l'impressione di essere proprio dentro la cappella. La Frugoni ricostruisce anche il clima del 300 e soprattutto la figura ambiziosa di questo Enrico Scrovegni, al quale non cesseremo mai di essere abbastanza grati per questa opera capitale della civiltà occidentale. Per condurre la sua indagine, Chiara Frugoni si basa su un documento molto importante, di cui ci parla adesso Marco Carminati. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. Il libro dedicato da Chiara Frugoni alla Cappella degli Scrovegni di Padova contiene, nella parte finale, un documento molto importante, cioè la pubblicazione del testamento di Enrico Scrovegni, che era stato il committente della Cappella. È molto interessante leggere questa parte, anche se naturalmente la lettura non è delle più divertenti, perché Enrico Scrovegni nel testamento cerca di restituire il denaro che ha come banchiere guadagnato, naturalmente utilizzando l'usura, cosa che era considerata nel Medioevo un peccato piuttosto grave, e la cappella degli Scrovegni che il banchiere fece realizzare accanto al suo palazzo è in qualche modo una sorta di remedio che il banchiere mise in atto per ringraziarsi le divinità, per ringraziarsi la Vergine, per ringraziarsi Cristo. E questa cappella viene realizzata a tempo di record, con una profusione di mezzi, anche di denaro straordinario, ma d'altronde era un banchiere, quindi poteva disporre di questi mezzi, e venne inaugurata, noi sappiamo esattamente, alla metà del 1305, perché noi sappiamo che vennero presi in prestito i paramenti addirittura dalla Basilica di San Marco per poter fare la cerimonia inaugurale della Cappella di Padova. La Cappella di Padova, come sapete, racconta negli affreschi di Giotto le storie dei nonni di Gesù e poi della mamma, cioè di Maria, e poi della vita stessa di Gesù. Ed è qui, nella parte della vita di Gesù all'inizio, che incontriamo i due episodi che si riferiscono alla Natività. In particolare c'è proprio la Natività di Gesù, e accanto, siamo sulla parete di destra, nella fascia centrale degli affreschi, c'è anche l'Adorazione dei Magi. È molto interessante osservare questi due dettagli, perché ci accorgiamo che la narrazione degli Vangeli canonici, cioè dei Vangeli che siamo abituati a leggere e a sentir leggere, non è esattamente combaciante con quanto è raccontato negli affreschi. Questo per un motivo molto semplice: quando questi pittori cercavano delle indicazioni, andavano a leggersi i Vangeli apocrifi, cioè quei Vangeli che la Chiesa non aveva ritenuto di inserire nei Vangeli canonici, ma che sono ricchi di dettagli e di descrizioni molto molto minute e anche molto simpatiche. Per esempio, qui abbiamo la presenza degli animali, del bue, dell'asino, che vengono raffigurati come se fossero degli spettatori e sono voltati verso la mangiatoia, quindi come se li avessimo messi nel presepe, ma dalla nostra parte. La Vergine è adagiata come se fosse una figura classica. Probabilmente Giotto ha visto dei sarcofagi romani e ha riprodotto queste immagini classiche. Poi c'è un bellissimo gruppo di pecore che sono messe in primo piano, tutte strette una all'altra come per riscaldare darsi a vicenda, e poi sulla destra i pastori che non guardano la capanna, ma guardano in alto, dove si vedono gli angeli che si stanno agitando e presumibilmente stanno dando l'annuncio e cantando il Gloria in Excelsis Deo. Accanto c'è la scena dell'Adorazione dei Magi, costruita in una capanna di legno che è perfettamente inserita in una prospettiva che Giotto già conosceva nei dettagli giusti, e la scena è ravvivata dalla presenza di due cammelli, o meglio di due dromedari. Noi le mettiamo anche nel presepe, ma nei Vangeli non si parla di questi animali. Queste aggiunte appunto si riferiscono in questo caso al protovangelo di Giacomo. Ma la cosa divertente e il dettaglio veramente piacevole di questo riquadro è che i cammelli sorridono, cioè c'è come una gioia che il mondo degli animali esprime nell'essere giunti appunto portando i magi alla Capam e ad aver potuto vedere il re dei re, ai quali appunto i magi offrono tradizionalmente i doni, così come noi siamo abituati a vederli nella grande tradizione cristiana di questo episodio. E sempre sulla Cappella degli Scrovegni vi segnalo I volti segreti di Giotto, le rivelazioni della Cappella degli Scrovegni, pubblicato da Rizzoli, 366 pagine, 21,50 €. L'autore è Giuliano Pisani, un insegnante padovano che è stato anche assessore alla cultura. In tale veste ha partecipato al restauro degli affreschi di Giotto e quindi li ha potuti seguire da vicino, ne ha potuto cogliere i particolari, fino a scoprire un dettaglio, quello cioè che l'ordine con il quale sono presentate le virtù cardinali non è l'ordine tradizionale con il quale le impariamo a scuola, e soprattutto ha notato l'assenza dei vizi capitali. E da questa indagine Pisani ha ricavato il suo libro, che è arricchito dalle immagini degli affreschi naturalmente, che sbocca il libro alla scoperta di quale sia stato l'autentico disegno intellettuale, il programma iconografico particolare della Cappella degli Scrovegni, di cui lo stesso Pisani ci porta a riscoprire il senso e soprattutto l'ideatore. Scopre appunto Pisani chi sarebbe stato l'autore che ha fornito a Giotto il programma iconografico della Cappella. Passiamo da Giotto a un altro grande della pittura italiana, il Beato Angelico, che troviamo in un libro che inaugura una serie di Phaidon Press, questo del Beato Angelico è di Diane Cole Hall, una studiosa americana, 240 pagine, 150 illustrazioni, €39,95, tradotto da Sara Crimi e Laura Santi. Poi c'è nella stessa serie, con una bella copertina violetta, il libro dedicato invece a un pittore a cavallo fra il 7 e l'800, Ingres, L'autore qui Andrew Carrington Shelton, docente all'Università dell'Ohio, 240 pagine, questo libro di Phaidon Press, €39,95, tradotto da Isabella Mangani e Nora Tigges Mazzone. Con Beato Angelico ci possiamo accostare alle pitture straordinarie di questo grande pittore che, secondo l'autrice, apre la prospettiva dell'arte all'arte, alla svolta rinascimentale. Con Angri invece ci accostiamo a un pittore controverso in qualche misura, che fu l'ultimo rappresentante del neoclassicismo, fu una sorta di cerniera importante anche in termini problematici per la dissociazione che egli stesso visse tra l'anima accademica, conservatrice, perfino reazionaria, la definisce l'autrice nel libro, e dall'altra parte lo sforzo di adeguarsi ai nuovi gusti che nascevano nell'Europa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrub. Un libro per Natale. Questa settimana il nostro ospite è Mario Botta, architetto di fama internazionale che ha lavorato per chiese, musei, biblioteche, edifici pubblici in tutto il mondo. Tra l'altro a Milano è l'autore della sistemazione architettonica della Scala restaurata. Buongiorno all'architetto Botta. Buongiorno. Architetto Botta, che libro regalerà per Natale ai suoi amici? Regalo un libro di una collana piuttosto intrigante. La collana si chiama Atelier, è diretta da Stefano Crespi e l'editore è Le Lettere di Firenze. È una collana che tratta di uno spazio fra la letteratura e l'arte che a me sembra particolarmente significativa, perché sono testimonianze, diciamo così, letterarie di artisti, e da lì il nome anche della collana Atelier. Un libro in particolare mi ha colpito, recentemente uscito, di Varlaine, questo pittore grigionese amato da Testori, di cui ha fatto anche dei ritratti e per il quale Testori stesso ha scritto numerosi testi. E questo libro di Varlaine si intitola L'uomo si ammala quando l'occhio si annoia, che è un'osservazione molto curiosa di questo straordinario artista, che annota questa osservazione in uno delle sue tante curiosissime aneddoti che narra. Credo che questo l'uomo si ammala quando l'occhio si annoia è un'osservazione che lui fa nella sua straordinaria rivisitazione di Napoli, la Napoli proletaria, la Napoli dei diseredati, la Napoli dei poveri, che Varlaine mette a confronto con invece il grigiore della Zurigo svizzera, della Zurigo opulenta, dove appunto ci si può ammalare perché ci si annoia. Questa osservazione immagino la ispiri anche nel suo lavoro. Ma mi serve molto, perché Varlaine è la pecora nera della cultura svizzera, per cui come Frisch o come Dürrenmatt hanno uno sguardo disincantato verso il loro paese e colgono gli aspetti, diciamo così, più problematici, ecco, per essere diplomatici, mentre invece hanno una grande acutezza nel riscoprire quegli aspetti che a noi sembrano invece magari negativi, come la Napoli proletaria, che però, rivisti attraverso l'occhio dell'artista, diventa piena di vita, di suggestioni, di voglia di vivere. Bene, grazie all'architetto Botta per questo consiglio natalizio. Allora, l'artista Varlaine è lo pseudonimo di Willy Guggenheim, che visse fra il 1900 e il 1977. Il libro che ci ha ricordato Mario Botta si intitola L'uomo si ammala quando l'occhio si annoia, è pubblicato da Le Lettere, 160 pagine, €16,50, tradotto da Raffaella Adobati Bondolfi. Vi segnalo adesso un grande della cultura francese ed europea, Blaise Pascal, di cui esce una lussuosa edizione di una delle opere più importanti, Le Provinciali. sono pubblicate da Einaudi, 810 pagine, 100 euro, contesto francese, tradotto da Carlo Carena. Questa è una delle opere più significative della letteratura francese, uno dei capolavori del grande filosofo, scrittore, matematico, scienziato, teologo, uno delle grandi menti del canone occidentale, vissuto tra il 1623 e il 1662. Questa opera in particolare fu scritta tra il 1656 e il 1657, per così dire a puntate, perché Pascal in realtà scrisse 18 opuscoli, e li scrisse anche sotto falso nome, per intervenire su un dibattito che era in quelle settimane in corso all'Università della Sorbona per rintuzzare le convinzioni dei giansenisti. L'opera diventa un attacco ai gesuiti e una difesa di Port-Royal, il cenobio dei giansenisti frequentato dallo stesso Pascal. È un'opera quindi dal tema apparentemente fredda e specialistica, che però ebbe uno straordinario successo, raggiungendo nelle ultime lettere, quelle pubblicate nel 1657, appunto tirature record per l'epoca di addirittura 10.000 copie. Ma sentiamo dal curatore qual è l'attualità di questa opera. Buongiorno Carlo Carena. Buongiorno dottor Carruba. Professor Carena, che cosa ha da dire oggi Pascal con questo libro in cui si parla di una disputa teologica con i gesuiti della metà del XVII secolo? Qual è il fascino eterno di questo libro? Ma dunque, ha ragione lei, se uno affronta, guarda la superficie, gli argomenti che sono trattati, ci dice ma cosa ce ne importa più oggi di queste cose che non le capiamo neanche, non riusciamo a capire come mai si potessero accanire su dei problemi che riguardavano la grazia, che riguardavano le opinioni probabili, anche solo le diciture sono così astruse che sembrerebbero respingere dalla lettura delle lettere provinciali. In realtà, provi anche lei ad aprire il libro alla prima pagina e vedrà che anzitutto si sorprende della verve incomparabile, come riconoscevano già allora gli stessi avversari di Pascal, la verve incomparabile con cui queste lettere sono state scritte. E poi come catturano veramente, perché sono delle commedie. Voltaire anzi dice che non hanno nulla da invidiare a Molière. È riuscito a mettere in berlina i suoi avversari, adottando anche molto abilmente questa forma dialogica, perché le lettere riferiscono a un amico di provincia le conversazioni che lo scrivente, cioè Pascal, ha avuto con alcuni padri gesuiti. E su temi, ripeto, apparentemente astrusi, anche se qualcuno è tutt'altro che astruso, per esempio il tema della libertà umana non è un argomento ancora oggi perento, ancora oggi dimenticato o dimenticabile. E poi il tema di fondo, cioè se la vita è facile o la vita è difficile, se l'uomo ha una volontà tale da imporsi sulla natura, sulle cose, sulla storia, o se invece è un fuscello nelle mani di un Dio che lo domina dall'alto. Questi sono in realtà i temi di fondo. Poi naturalmente c'è tutta una serie di variazioni su piccoli casi di coscienza, su piccoli accidenti della vita o anche su grossi. Io le consiglierei, per esempio, vista la sede in cui ci troviamo, parliamo, se lei per esempio aprisse l'ottava lettera, che è dedicata agli uomini di finanza, ai grandi imprenditori, soprattutto ai grandi banchieri. Beh, a proposito di temi attuali, credo che non sia un tema oggi fuori dalle cronache. Senta, un altro elemento di novità è rappresentato dalla forma, perché lui scrisse queste lettere appunto in fascicoli che riuscirono a fare grande opinione pubblica, quindi ebbe un successo anche, non dico come giornalista, ma insomma come creatore di opinione pubblica. No, ma proprio anche, dica pure come giornalista, perché non vorrei avvicinarmi troppo. È meraviglioso, tra le altre meraviglie, che sembrano scritte da un editorialista di Le Monde o del Figaro di oggi, cioè questo francese sbalorditivo di una chiarezza cristallina, di una modernità trascinante, e quando noi paragoniamo i nostri letterati contemporanei di metà Seicento alla prosa pascaliana, rimaniamo veramente strabiliati. Io consiglierei addirittura ai lettori di leggersi il francese a fronte anziché alla traduzione italiana, tale è la chiarezza esemplare di questi scritti che, appunto, è stato detto, hanno incominciato la moderna prosa francese. Bene, grazie allora a Carlo Carena anche per la presentazione che ha fatto di quest'opera nel libro Le Provinciali di Pascal. A voi, auguri di buon Natale a tutti. Pascal fu anche scienziato, anzi raggiunse la fama innanzitutto come matematico. E a Pascal matematico è dedicato il libro di Keith Devlin, La lettera di Pascal, pubblicata da Rizzoli, 234 pagine, 18,50 euro, tradotto da Daniele Didero. La lettera è quella scritta da Pascal il 24 agosto del 1654 a un grande matematico, Pierre de Fermat. Una lettera di meno di 3.000 parole, ma che, scrive l'autore, che è un matematico a Stanford, avrebbe cambiato per sempre la vita dell'umanità. Aggiunge l'autore, per la prima volta nella storia, in quelle pagine veniva esposto un metodo che permetteva agli esseri umani di predire il futuro. In che senso? Fermat e Pascal discutevano di un tema apparentemente futile, quello del modo in cui andrebbe ripartita la posta tra i giocatori in caso che la partita dadi alla quale sono intenti si interrompa. Da questo dibattito su un caso considerato fino allora addirittura insolubile nasce niente di meno che la teoria della probabilità, e il libro di Devlin, con garbo, ironia, riduzione e grande chiarezza, ci fa cogliere, oltre alla profondità del dibattito tra due geni che si svolge per lettera, la posta in gioco e soprattutto le conseguenze sconvolgenti dell'intuizione di Pascal. Sentiamo come l'autore riassume questa intuizione del grande matematico francese. Ciò che sarebbe stato inconcepibile prima che Pascal e Fermat risolvessero il problema del gioco incompiuto è che siamo in grado di calcolare precisi valori numerici per ciò che ci può portare il domani. Anche se non possiamo sapere che cosa di fatto ci porterà il domani, siamo in grado di quantificare che cosa ci potrebbe portare e possiamo agire di conseguenza. Ed è così che tutti noi oggi viviamo le nostre vite. Il confettino. Oggi vi segnalo tre titoli. Il primo è un pop-up di uno di quei libri che aprendosi fanno venire fuori tante bellissime scene animate. Il libro si intitola Scia, è pubblicato da Franco Cosimo Panini, 25 euro, e presenta anche dei testi di David Pelham. Il secondo titolo ve lo segnalo perché rientra un po' nelle offerte che vi ho presentato in queste settimane. Sono due offerte delle edizioni Paoline, Una grande gioia, 25 storie di Natale, che trovate al prezzo specialissimo di 2,50 euro, un libro gioco, e Natale in rosa, la festa più festa dell'anno con Tinni, anche questo in vendita al prezzo speciale di 2,50 euro anziché 15. E infine vi segnalo di Simona Zampa Il signor Krapitz e il Natale, pubblicato dalle Fiabe di Valentina, 13 euro. Questa è la storia di un paccone misterioso che passa di mano in mano dando modo a Babbo Natale di farci un bell'augurio, che adesso vi leggo. Cari Krapitz sulla terra, tanti bimbi fanno la guerra, tanti sono abbandonati, tristi, soli ed ammalati. Questo vostro bel pacchetto è un regalo già perfetto. Io vi lascio da parte mia altruismo e fantasia. Faccio mio questo augurio di Babbo Natale, augurando a tutti voi un felicissimo Natale, ringraziando e naturalmente facendo anche a loro tanti auguri Laura Marchesi e Daniele Casagrande in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Ancora buon Natale e a risentirci domenica prossima.